Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, cari gastronauti, cari radioascoltatori, oggi parleremo di un argomento che tocca il vino, ma lo tocca forse in parte, forse a metà. Ora vedremo con i nostri ospiti, vedremo un po' da questo giro che faremo per l'Italia. Parleremo delle cantine degli archistar, di musei che sono costati miliardi aperti recentemente, di eventi territoriali che ogni giorno ormai incombono sulle pagine dei giornali e avvengono in moltissime aziende vinicole. Ebbene, l'interrogativo che io voglio porre è questo: cosa sta cambiando nel mondo del vino? Perché all'improvviso c'è stato questo risveglio, diciamo, di comunicazione? Perché sempre di più si parla dell'esterno del vino, sempre meno si parla del vino in quanto diciamo liquido, in quanto vino che va degustato. Mi sembra un po' che si stia quasi allontanando, non so se è una volontà oppure se sono veramente i tempi di internet che cambiano questo aspetto. Bene, lo vogliamo vedere, vogliamo anche capire se ciò è anche chiesto dai consumatori, nel senso che il consumatore magari chiede più spettacolarità, chiede più accoglienza, forse sarà anche questo, ma i prezzi, i costi di queste operazioni si stanno ricaricando sulle bottiglie di vino oppure stanno diminuendo i ricavi per i produttori proprio per fare questo tipo di operazione? Bene, quindi iniziamo questo nostro giro da un produttore che è anche architetto al tempo stesso e che recentemente è stato autore di una trasmissione in giro per l'Italia proprio per così vedere, visitare e dare un giudizio sia come architetto e penso anche come produttore di vino delle cantine firmate dai grandi architetti. Buongiorno Salvatore Geraci. Ciao Davide. Buongiorno. Salvatore, allora tu hai fatto questo viaggio nelle cantine, diciamo, griffate, chiamiamole così. Ma innanzitutto ti voglio chiedere questo e voglio un giudizio spassionato. Ma come produttore di vino, quindi come addetto anche ai lavori, le hai trovate funzionali o le hai trovate semplicemente bellissime da vedersi? Ma le considerazioni che fai tu sono quanto mai pertinenti, però c'è da dire che questo fenomeno si registra prevalentemente dove c'è una nuova frontiera del vino. Ad esempio in Maremma, come tu ben sai, è una nuova realtà, quindi nuovi investimenti, nuove aree vitate, c'è la necessità di fare nuove cantine e ovviamente un produttore moderno, un produttore che vuole fare vino di qualità non può che pensare anche ad una qualità della scatola muraria, della cantina. Ecco, giova, come tu ben sai, da una buona uva non è detto che si faccia un buon vino, da una buona uva per fare un buon vino ci vogliono anche attrezzature. La cantina, non dimentichiamolo, al di là di un'eventuale autocelebrazione è prevalentemente un edificio, una fabbrica per fare vino. Franco Ricci, poi ti riprenderemo. Abbiamo con noi anche Franco Ricci, che è direttore di Bibenda, il quale sicuramente si occupa più del vino in quanto qualcosa da degustare che più che da vedere. Ma sono anche architetto, quindi ti posso dire che mi piace il pensiero che state facendo oggi, perché in effetti stavo pensando a questo, ma 600-700 anni fa ci stava questa architettura, no? Io sento se Antinori c'è dei castelli o se quella, qualcuno l'ha fatti, e forse molto probabilmente c'è stato un periodo, quello degli ultimi 100 anni, che invece si è un po' acquietato e la cantina era la cantina per tutti. Forse ci stiamo tornando all'esigenza di vedere qualcosa di grande firma, e quello che hai detto tu, però giustamente molti architetti non fanno gli architetti per bene e quindi fanno dei disegni soltanto molto così e poi magari non sono funzionali. E questo succede anche nell'architettura moderna per quanto concerne le chiese, per quanto concerne anche le case, no? Bisogna trovare l'architetto giusto che faccia la cantina giusta. Senti Franco, ma poi la rivolgo la stessa domanda anche a Salvatore Geraci. Ma sì, però in Francia diciamo che questo fenomeno non è successo. Non è successo perché le cantine sono rimaste quelle storiche. Io non mi risulta che ci siano cantine firmate da grandi architetti. Vuol dire che l'Italia va verso il design e la Francia va verso il passato? Ma io credo che quel passato abbia comunque un design, perché qualcuno deve averla fatta con certi criteri, con certe cose che non credo che sia stato il produttore a decidere come doveva essere la cantina soltanto. Credo che comunque qualcuno abbia dato degli indirizzi come devono essere queste cantine, come devono essere belle gli ingressi, insomma, mi riesco a Moet, cioè appena entri vedi queste cose fantastiche, cioè. Quindi esiste questa probabilità. Adesso io non, ecco, a me piace vedere un design, forse per motivi, diciamo, professionali. Ma a me piace, però ecco, non piace ovviamente l'eterno, l'eterna modernità, questo antico moderno mi piace molto, ecco. Salvatore Gerace, ma chi le paga i costi di questi grandi investimenti? Tanto grandi investimenti, fare una bella cantina, bella tra virgolette, costa tanto quanto fare una pessima cantina. Certo, il vino, come dicevi in apertura tua, immagine, comunicazione, e produrre un vino in un orrendo capannone piuttosto che in un edificio che segna anche il paesaggio. Dicevo della Maremma, queste nuove cantine sono dei presidi, adesso non voglio difendere la categoria degli architetti, dei miei colleghi, ma sono dei presidi che segnano anche il paesaggio, sarebbero i nostri nuovi chateau. Sentivo parlare prima di Francia, in Francia c'è questa costellazione di chateau, forse non avevano bisogno, anche se ad esempio Chateau Lafite ha chiamato Riccardo Bofill a fare la nuova cantina interrata che si coniuga con quella storica. E quindi i costi ci sono, ma i costi poi non è che siano tanto diversi dalle cantine tradizionali, ecco. Franco Ricci, ma ci si occupa meno del vino nelle cantine oggi, nelle aziende di prima, dal punto di vista della qualità? No, ma noi la qualità, ecco, stiamo chiudendo la guida 2011, la qualità è imponente in questo paese, ragazzi, cioè stiamo andando verso, il problema è che i produttori, cioè la crisi che sentono i produttori è perché hanno pensato di cominciare a fare il produttore, alcuni produttori, anzi tanti produttori, facendo il vino buono, punto. Dovevano pensare di fare il vino buono e saperlo vendere, perché qualcuno non lo sa fare. È chiaro che la crisi c'è, però voglio dire, sulla qualità la crisi non c'è. Franco, permettimi, faccio una chiosa. Tu hai detto fanno vino buono questi tanti nuovi produttori. Beh, ce ne sono alcuni che fanno anche un vino che non è assolutamente buono. E io forse per questo che noi segnaliamo. Certo. È chiaro che quelli non li conosciamo neppure. Noi, insomma, ma sono d'accordo, dico forse belle cantine servono anche questo, per rendere più buono forse il vino. Ah, tu dici che il vino, la cantina bella molte volte fa vino cattivo? Meno buono? Fa vino meno, no, non dico non in generale. Conosco, no, non dico in generale, dico che probabilmente si può anche così mettere sul mercato con una comunicazione importante, con qualcosa di imponente, dei vini che qualitativamente forse lasciano desiderare, volevo dire solo ma questo. Ma il tetrapacca per eccellenza, siamo andati a vederla, la cantina non mi pare che sia così architettonicamente, è una enorme, enormissima direi quasi, cantina, ma non è così abbellita da un architetto. Beh, diciamo che il tetrapacco ormai si sta trasferendo sul vetro, attenzione. Io non le ho aperte quelle bottiglie, perché le ho, però perché ho paura se dovesse per caso piacermi, non so, beh, è drammatico. Va bene, grazie a Salvatore Geracci e a Franco Ricci. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata a tutti. Bene, oggi parliamo di vino, ma in maniera un po' diversa dal solito, perché parliamo di quello che sta attorno al vino. Parliamo di cantine fatte da archistar, di musei super tecnologici, di eventi territoriali che ormai ogni giorno appaiono sui giornali e avvengono un po' in tutte le cantine d'Italia, in tutti i territori d'Italia. Bene, cosa sta succedendo nel mondo del vino? È stata scoperta la comunicazione? Dipende dalla crisi di mercato? Dipende da un'esigenza? Da cosa dipende tutto questo? E Il vino rimane quello o cambia anche il vino? Bene, pongo questa prima domanda a un comunicatore importante come Oliviero Toscani, che è anche produttore di vino, quindi credo che senta questo argomento, lui che mesi fa al Vinitaly aveva lanciato un'idea molto importante di comunicare il vino italiano nel mondo, appunto sotto un'unica sigla, sotto un'unica comunicazione, ma mi sembra che non sia stato ascoltato, ma mi sembra soprattutto che ormai si investe nel territorio nazionale. Buongiorno Oliviero. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Cosa ne pensi? Ma penso che non è che non sia stato ascoltato quello che abbiamo lanciato insieme, fra l'altro c'entri anche tu, al Vinitaly. No, stiamo lavorando su questo progetto, perché sicuramente è un progetto che va fatto, perché il futuro non è mai troppo tardi a fare le cose per bene e dobbiamo cominciare a fare le cose per bene. Per quanto riguarda il vino, l'Italia non è un paese di tradizione di cantina, le cantine sono in Francia. Una volta le cantine erano nel sottofondo di castelli o case di ricchi e nobili, quindi non c'era un'immagine di cantina. E qualcuno ha pensato che finalmente la cantina poteva diventare qualcosa di culturalmente importante. Io credo che questo sia molto molto molto bello, no? Abbiamo avuto la fortuna di poter iniziare a far questo. Devo dire che i primi sono stati i californiani, Devo dire che in California hanno fatto questo molto tempo prima di noi. Non siamo mai noi i primi a fare le cose, purtroppo. Ormai la creatività non esiste più in Italia, diciamo noi di essere un paese creativo, ma in realtà non lo siamo. Ma io credo che in California questo sia stato fatto perché veramente mancava una storia, una tradizione, e bisognava dare un segno. In Italia forse, anche se è recente la tradizione c'è, però mi sembra che questo fenomeno sia scoppiato all'improvviso, e quindi vuol dire che c'era veramente un'esigenza. Questa storia di dire che la California o l'America non ha la tradizione, eravamo noi che avevamo la tradizione europea, che in più abbiamo fatto un viaggio, siamo andati in America, sì. Cioè gli americani hanno avuto un'esperienza di più degli europei. Prima erano europei, più hanno fatto un viaggio, sono andati in America e hanno capito che si poteva fare certe cose, anche perché là permettono di fare certe cose che qui è impossibile fare. Se vuoi ti racconto l'odissea della mia cantina, ti metterai a ridere. Bene, poi me la racconti, rimani con noi. Abbiamo anche un giornalista importante, Marco Sabellico del Gambero Rosso, e a lui chiedo: Marco, sei sorpreso di tutto quello che sta avvenendo attorno al vino? Dicevo, cioè musei ipertecnologici, cantine di grandi architetti, eventi territoriali ormai che succedono ogni ora. Cioè questo fermento, secondo te, che cosa ha dovuto? È dovuto all'estrema vitalità di questo settore, insomma, che devo dire ha passato qualche anno difficile, perché non ce lo nascondiamo, c'è stata la crisi a livello internazionale, però l'Italia ha dato prova di una straordinaria vitalità, e questa è la risposta dei nostri produttori, sono bravissimi, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta ognuno ha fatto la sua parte, insomma. E ne stiamo venendo fuori molto bene da tutta questa storia, insomma. Ecco, cambia il contesto, cambia diciamo l'esterno, ma il vino sta cambiando? Guarda, il vino è il suggello, diciamo, il simbolo di uno stile di vita, dove c'è attenzione ai fattori estetici. Quindi il vino non è più alimento, il vino è soddisfazione estetica. Per questo poi vediamo anche la cantina del grande architetto, perché noi vogliamo che il vino sia simbolico di un rapporto con il mondo, di un rapporto con la natura, con l'alimentazione, che il produttore di qualità garantisce anche mettendo la firma di un grande architetto come timbro su un paesaggio, che è un paesaggio che deve essere mantenuto bello, naturale, la viticoltura deve essere a basso impatto, e tutto questo, anche per aiutare il marketing, viene evidenziato a volte, da chi ha le possibilità, da una grande cantina, da un grande design, insomma, è come un marchio, insomma, che garantisce questo circuito virtuoso dove c'è qualità nel vino, ma anche qualità nella gestione dell'azienda agricola, naturalità. E su questa parola di naturalità sta cambiando anche il gusto del vino, cioè vogliamo vini più veri, vini più naturali in questi ultimi anni. Marco, tu stai chiudendo, immagino stai lavorando sulla la guida dei vini del Guarda, sto correggendo le bozze e ho tra le mani la scheda di una piccola azienda toscana di Casale Marittimo, in località Campigallo, dove mi risulta si faccia un ottimo vino rosso, e devo dire che l'annata 2006 evidenzia naso fine contraddistinto da belle note di pepe nero, una bocca agile ed equilibrata, che lo rende un vino di godibilissima bevibilità. quale sarà mai? Scommetto che si chiama OT. Beh, professore, vi ringrazio, siete molto gentili e generosi. Vedrete, le prossime annate saranno fantastiche. Il vino è buono, attenzione, il vino è buono. Oliviero, ma ecco appunto, mettiamo un po' anche la tua grande creatività riconosciuta. Vabbè, le cantine degli architetti, ok, tante altre cose, ma tu cosa aggiungeresti a quello che è stato fatto fino ad oggi, così per fare ancora più attenzione sul mondo del vino? Sai, come ti dicevo, nessun dettaglio è piccolo ormai, si vive d'immagine, si vive, lo sguardo ha bisogno anche del suo piacere, insomma, no? Ciò che si guarda, la bottiglia, la qualità, l'etichetta. Rothschild fece fare l'etichetta a Picasso ai tempi, quindi non inventiamo niente. Cioè, l'immagine del vino italiano fino a qualche decennio fa, a parte quello che è successo 20 anni fa col metanolo, era il fiasco del vino sul tavolo. No, non certo. Possiamo, a parte il Piemonte, forse qualcosa, non so, nel Veneto, ma che io mi ricordo era il fiasco. Era bellissimo il fiasco, bellissimo. Ma infatti, però quella era l'immagine, certo, certo. Che era molto diverso dallo champagne, quando uno diceva champagne, cioè persino gli astemi piacciono la parola champagne, insomma. Si pensa quindi, subito al sesso quando si dice champagne. Appunto, lo champagne vuol dire belle donne, bella vita, bello tutto. Quindi questo qui vuol dire marketing, vuol dire immagine, cosa che a noi mancava. Cosa che ancora adesso è difficile far passare in un certo modo. Sono solamente pochi che hanno capito tutto questo. E quelli che hanno fatto le cantine, quelli che hanno fatto delle bottiglie speciali e quelli che fanno anche un vino molto speciale. Chiaramente il vino, ormai ci sono tantissimi vini buoni in Italia, tantissimi. Si è capito che la qualità non è più quella di una volta, la qualità cambia, si evolve, la società evolve, i gusti della società evolvono. C'è un momento in cui piace il rosé, un momento in cui piace il vino più leggero, è chiaro, è tutto questo seguito da un'immagine, no? E io trovo che questo sia molto bello, perché il vino che cos'è alla fine? Il vino alla fine è cultura, è una cultura importantissima, devo dire che è uno dei prodotti guida dell'Italia, cioè il nostro è la nostra, è un po', cosa c'è di meglio? Ditemi, cosa c'è d'altro? Non dite che sono scarpe foulard. Ormai li fanno meglio negli altri paesi. No, oltre al vino ci sono. Credo che sia l'immagine, il prodotto più importante che abbiamo. Se tu permetti, io aggiungo anche i giacimenti gastronomici, formaggi, salumi. Sì, sì, no, ma però il vino richiude in sé in tutto. Se tu dovessi pigliare un ingrediente, una di queste cose, cosa prenderesti? Il formaggio? No, forse no. No. Forse il vino. Beh, certo. Anche se abbiamo 350, quasi 400 vendemmie meno dei francesi, perché i francesi sono 400 anni più vecchi di noi in cantina, eppure sono stati bravi a recuperare questi 400 anni. Bene, vero, vero. Grazie a Oliviero. Voglio tornare a Marco Sabellico per un'ultima domanda. Ha detto si va alla ricerca di vini più naturali. Vorrei chiederti in un giro di un minuto di dirmi cosa intendi. Ma guarda, proprio questa riflessione dell'architettura e del paesaggio è interessante, perché in qualche modo c'è bisogno di autenticità e di garanzie in questo senso. Noi per esempio abbiamo lanciato questa iniziativa che è le cattedrali del vino, in cui premieremo i progetti più interessanti architettonicamente, più antichi e più compatibili ecologicamente nei prossimi 2 anni. Quindi siamo stati alla Biennale di Venezia, l'abbiamo presentata 2 settimane fa. Sì, abbiamo sentito Salvatore Geraci prima di te. Esattamente. Ecco, allora, il concetto di verità e di naturalità, capito? Abbiamo passato gli anni 80 e gli anni 90 ad inseguire modelli stilistici molto sofisticati. Adesso abbiamo bisogno di meno mediazione con la materia prima, cioè si deve sentire la materia prima. Quindi l'enologo deve fare un passo indietro e sta facendo un passo avanti l'agronomo, cioè la materia prima elaborata in maniera più rispettosa possibile, proprio per mettere in mostra le caratteristiche e soprattutto possibilmente in ogni territorio le uve di quella tradizione, di quel territorio, insomma. Bene, grazie anche a Marco Sabellico del Gambero Rosso. E ora grazie a voi. E il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare del mondo del vino, quello che sta attorno. Bene, cosa sta succedendo? Sta succedendo che probabilmente il vino, la produzione di vino, i produttori sempre di più si stanno integrando col territorio. In fondo anche le cantine degli archistar diventano un punto di attrazione, i musei del vino sicuramente diventano un altro così fenomeno di medium del territorio. Gli eventi territoriali che ormai avvengono, diciamo, continuamente, mentre in passato questo non succedeva nel mondo del vino, c'erano solamente una serie di date ben precisate, la vendemmia o poco altro. Bene, oggi invece c'è, abbiamo detto, un grande movimento. Bene, il Consorzio per la tutela del Franciacorta forse più di ogni altro sta integrando appunto il proprio territorio con gli eventi e il vino. Ad esempio in questo periodo il Festival di Franciacorta, che appunto sarà nei prossimi giorni, dal 18 al 19 settembre, in tutte le aziende succederanno delle cose. Allora vogliamo capire, ma questo fenomeno, dice, porta qualcosa, porta più alla conoscenza del vino o porta più alla conoscenza del territorio? Questo secondo me è un fatto molto ma molto importante. Lo chiediamo a Maurizio Zanella, che appunto è presidente del Consorzio per la tutela del Franciacorta. Buongiorno Zanella. Buongiorno. Beh, sicuramente sono manifestazioni che servono e sono proiettate per avvicinare di più il consumatore, l'appassionato, ma anche la famiglia ai territori che producono vini, come nel nostro caso, di eccellenza, vini che richiedono e alle cui spalle c'è una certa cultura e appunto cantine particolarmente importanti. Questo consumatore non lo sa e queste manifestazioni servono per avvicinare un consumatore non sempre attento, che magari ha fatto corsi o ha una cultura estremamente approfondita, al mondo del vino. Ecco, ma voi siete anche un po' eretici, perché avete portato fuori anche degli eventi in giro per l'Italia. Questo Festival della Franciacorta è andato un po' in tutte le città italiane, altre città italiane, quindi diciamo che c'è anche un'operazione diversa. Sì, è a doppia valenza: la prima per portare da noi proprio in cantina il consumatore, l'appassionato, e l'altro per andare a casa sua, per cui abbiamo fatto una manifestazione piuttosto importante in Versiglia, un'altra sarà fra poco a Treviso, poi a Roma, ma diciamo che però in cantina, come qualche squadra di calcio a noi nota, giochiamo meglio. Quindi in cantina giocate meglio, ma ecco, vi ha portato dei risultati, perché questo è importante, cioè alla fine bisogna trarre anche delle conclusioni sulla conoscenza dell'area, del territorio, del vino, perché mi sembra che in fondo sia questo quello che voi volete raggiungere, cioè far conoscere il vostro territorio molto più che in passato. Beh, l'affluenza lo scorso anno ha superato le 5.000 unità. Adesso i numeri non significano tutto, ma di sicuro c'è un mondo che probabilmente non aveva mai visitato la Franciacorta che ci si è avvicinato. Inoltre quest'anno abbiamo cercato di dare dei temi a questa manifestazione legati all'arte, legati ai mestieri antichi, per cui ci saranno, non so, quelli che lavorano il ferro piuttosto che quelli che fanno il formaggio di capra, nelle cantine, per far vedere mestieri che sono, come dire, in via d'abbandono. Poi degustazioni, cene, emozioni con vari tipi di eventi, e devo dire che ha avuto un discreto successo, perché i tour che erano stati predisposti con pulmini o addirittura in bicicletta, sempre con delle guide, in modo che la persona che non conosce il territorio venga accompagnato o su un pulmino o addirittura in bicicletta fra le vigne, fra le bellezze a Franciacorta, sono quasi esauriti, per cui credo ci sia un interesse non indifferente da parte del consumatore. Bene, rimani con noi. Ora andiamo in Piemonte e andiamo da Bruno Ceretto. Ceretto è sempre stato all'avanguardia, diciamo, di quello che succede nel mondo del vino, perché di eventi nella sua vita ne ha organizzati tanti, ma l'ultima sua così operazione è molto particolare, perché sì, lui è ricorso a un archistar come molti altri produttori di vino che hanno costruito le cantine, ma non ha costruito una cantina, ha costruito, diciamo, un belvedere sulle sue vigne. È vero Ceretto? Quindi Tu vuoi far più vedere, diciamo, i campi, le vigne rispetto a noi, noi lo chiamiamo acino, no? Sai che mio fratello è molto appassionato di architettura, penso che sarebbe stato il suo sogno. Però naturalmente noi, che la Langa è famosissima da sempre per la gastronomia, per i vini, per tutto quello che manca a noi. Pronto? Sì, sì, pronto, pronto, parla, parla pure. Tutto quello okay. Che manca a noi è un pochettino il tempo che deve percorrere un turista che arriva giù. Io quando ero assessore all'immagine del comune di Alba ho fatto un'indagine e ho scoperto che qui si fermano non più di 48 ore, adesso siamo già riusciti a portarle a 52 e bisogna cercare delle soluzioni affinché si appassionino e occupano il tempo. Abbiamo fatto questa iniziativa, abbiamo investito parecchio qui a Monsordo Bernardina, nel quartier generale della Ceretto, e ne abbiamo approfittato anche perché tra gli architetti c'è mio genero e quindi, però ha fatto una bellissima opera ed è molto molto molto frequentata. Noi prima avevamo un turismo occasionale, adesso tramite internet e il resto la facciamo vedere per il mondo, ti garantisco che le presenze sono notevolissime. Qui facciamo degustare i vini, facciamo discussioni, facciamo discutere anche se vogliono dei prodotti tipici locali e lì abbiamo soprattutto la funzione quella di mandare questa gente che arriva nei ristoranti giusti, negli alberghi giusti, dando anche delle informazioni sui prezzi affinché non arrivino delle sorprese. Ecco, prego, prego, rimani con noi che faccio poi una domanda a Zanella, ma poi la propongo anche a te. Bene, abbiamo visto Zanella che sta cambiando il mondo del vino, diciamo dal punto di vista dell'esterno, appunto sempre più ci sono manifestazioni, come anche tu hai raccontato del vostro consorzio, ma io mi chiedo, il vino sta cambiando? Sta cambiando il rapporto con il consumatore. Prima le cantine più importanti erano dei fortini inaccessibili perché teoricamente tenevano dei segreti inespugnabili. Devo dire che il vecchio mondo, quindi Francia, Spagna, Italia, questa volta, penso sia la prima, ha imparato molto dal nuovo mondo, mi riferisco a California, a Sudafrica, dove invece la cultura del far vedere e del non nascondere e di aprire le porte è iniziata ben prima che da noi. Ecco, ma Marco Sabellico del Gambero Rosso prima ha detto che il vino sta cambiando perché si sta andando sempre più verso la naturalità. Tu cosa ne pensi? Beh, c'è una tendenza evidentemente in atto proprio sotto il profilo tecnico a rispettare sempre di più, giustamente a mio avviso, la natura e quindi il vigneto, e entrare nel vigneto con più precauzioni rispetto al passato. Poi dopo c'è chi esagera da un lato o dall'altro, credo che come sempre anche in questo caso il giusto stia nel mezzo. Grazie a Maurizio Zanella col Festival di Franciacorta in Cantina, ma torno a Ceretto e gli faccio la stessa domanda. Il vino sta cambiando, si sta andando verso più verso la naturalità? Bruno. No, ma come certamente deve andare su quel percorso, a parte che noi siamo di origine contadina, quindi e quindi abbiamo sempre rispettato questi valori, è un'agricoltura molto molto molto pulita e diciamo con produzioni controllate, nel senso che la qualità arriva solo di lì, sta cambiando. Noi non abbiamo neanche affrontato il discorso del cambiamento perché riteniamo che si possa fare una grande qualità soprattutto scegliendo la posizione delle vigne, capisci? Perché sì. Poi in fondo è la natura che ti dà soddisfazione sulla qualità e quindi io leggo, mi informo, so che qualcuno ha tentato rivoluzioni, noi qui abbiamo anche dei fenomeni, per esempio qualche paese che aveva dei complessi nei confronti del Nebbiolo, parlo del Dolcetto, ha voluto veramente cambiarlo negli ultimi anni, ma sono ritornati di nuovo tranquilli e sereni ai valori dei vecchi tempi. Ecco, quindi il discorso di acino, diciamo che sta percorrendo i tempi perché è una vista sui vigneti e non una vista sulla cantina. Quindi vedi Davide, la cosa più importante, io che mi fermavo poco in cantina, adesso che arrivano i turisti, Ogni tanto scendo giù, perché c'è l'ufficio sopra, scendo giù mi metto a parlare con questa gente. Tu non ti rendi conto quanto sia bello, interessante, quante cose si imparano, ma soprattutto quanta soddisfazione dai a questa gente che arrivano, fanno migliaia, qualche volta anche qualche decina, certo, di migliaia di chilometri per venire a vedere questo impiemonte. Dobbiamo proprio ringraziare soprattutto Internet che ci ha dato questa possibilità di allargare le informazioni. Grazie. E siamo soddisfatti. Grazie a Bruno Ceretto. Purtroppo con Internet non si può bere il vino se non virtualmente, se no lo ringrazieremo forse non una ma mille volte. Il gastronauta. Ebbene, abbiamo sentito tantissimi ospiti, produttori di vino, giornalisti specializzati, e abbiamo parlato di le cantine degli Archistar, dei musei dove sono stati investiti miliardi ultimamente, eventi territoriali delle aziende e dei consorzi che avvengono ogni giorno. Un tempo invece gli appuntamenti erano uno o due all'anno, la vendemmia e qualche cos'altro. Oggi invece veramente sembra che ci sia stato un risveglio generale molto importante dal punto di vista della comunicazione. Bene, allora io chiedo a un giornalista che non ha mai peli sulla lingua: tutto questo, diciamo, bailam che sta avvenendo attorno al mondo del vino è per distrarre il contenuto vino oppure è un'esigenza oggi dei tempi moderni, caro Carlo Cambi? Ciao Davide, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Ma io propendo per la prima ipotesi, cioè che sia un modo per dimenticare i guai grossissimi che il mercato del vino ha in questo momento. Non che le due cose non possano andare insieme, cioè qualità del vino e anche spettacolarizzazione e anche divulgazione della cultura del vino. Il problema qual è? È che in Italia ci siamo molto affidati allo showbiz e molto poco affidati all'economia nel settore vinicolo. Quindi tu dici sicuramente, come posso dire, molta molta immagine, però meno sostanza nei conti finali, questo che vuoi dire? Esattamente questo. Tu pensa che alcune cantine neonate che hanno fatto investimenti folli sia nell'acquisto della terra sia nella realizzazione delle cantine hanno poi dovuto iscrivere per forza i vigneti alle DOCG, incrementando la sovrapproduzione, perché era l'unico modo per farsi dare i mutui dalle banche. Quindi si sono impiccate a un investimento esagerato, contribuendo a sovrapprodurre. Il caso per esempio del Sagrantino di Montefalco da questo punto di vista è emblematico, e come dire, introducendo degli elementi di veleno nel ciclo economico del vino. Bene, abbiamo con noi un bravissimo produttore di vino molto noto, che è Alessio Planeta. Buongiorno Alessio. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Anche a te chiedo, è un'esigenza questa esplosione di comunicazione, diciamo, che sta avvenendo nel mondo del vino? È un'esigenza data, no, io non credo tanto dalla crisi forse economica, quanto anche dalla concorrenza straniera? Ma guarda, io, se mi permetti una veloce riflessione, io credo che non bisogna dimenticare quello che ha fatto il vino italiano negli ultimi 15 anni, cioè non saranno certo due anni di flessione, che poi a guardare i consumi interni, per esempio, più che flessione sono, come dire, degli spostamenti di consumi da una tipologia di vino ad altri, a cancellare un super boom che si vede molto all'estero, dove credo tutti sapete, insomma, che l'Italia, per esempio in America, è diventato il vino più consumato. Detto questo, ovviamente due anni difficili di economia su un prodotto come il vino hanno sicuramente, come dire, fatto riflettere un po' tutti sulla comunicazione. Io credo che ognuno di noi ha calato sulla propria realtà una esigenza di comunicare che è cambiata. Io per esempio vedo alle aziende come le nostre, sono alla fine delle aziende piccolissime, perché voi sapete comunque che il mondo del vino è molto frazionato. Oggi noi dobbiamo secondo me guardare quasi al nostro consumatore come una community, come un gruppo di persone che ti segue e che quindi va in questa maniera, è visto in questa maniera e va tenuto informato su tutto quello che noi facciamo. Ecco Alessio, io volevo chiederti questo: voi come marchio Planeta, diciamo che siete cresciuti a fari spenti, io dico, nel senso che non avete fatto cose eclatanti tipo le cantine di un grande architetto o cose appunto così importanti dal punto di vista del design e di altro. Siete cresciuti lentamente con un'operazione così molto, molto intelligente, lo ripeto, affari spenti. Ecco, vi ha premiato un'operazione di questo genere, molto meno eclatante di tante altre. Sì. Guarda, io credo che non è un caso che le aziende come noi vengono dall'agricoltura pura e quindi, come dire, sono abituati da generazioni a attraversare gli alti e i bassi, no, del nostro, tipici del nostro mondo, e quindi siamo sempre mossi con grande prudenza. Poi aggiungo anche il fatto che a noi ci è sempre divertito progettare da noi con un kit familiare le cantine che abbiamo fatto, e poi abbiamo sempre seguito un'idea che era quella che, siccome come sai, noi abbiamo aziende in diverse parti della Sicilia e sono posti molto diversi fra di loro, le cantine dovevano essere prima di tutto integrate dentro quel territorio, senza che questo voleva dire, come dire, rinunciare in certi casi alla modernità. Quindi in ogni posto abbiamo fatto delle cose diverse e devo dire che, siccome poi ci ritagliamo la parte divertente che è la progettazione, la scelta forse ha premiato. Beh, Carlo Cambi, io voglio chiederti, ma secondo te sta cambiando, diciamo, l'involucro esterno del mondo del vino, ma il vino in quanto tale in quale direzione sta andando? Cioè, dico, il vino sta andando verso la naturalità, sta andando verso così, cioè sta tornando indietro dal gusto internazionale? Tu cosa ne pensi su questo? Beh, io intanto vedo segnali che mi dicono che i bianchi, per esempio, sono in risalita rispetto ai rossi, mi dicono che gli spumanti sono in questo momento i vini che si vendono di più, e il consumatore che cosa chiede? Di bere più leggero, più fine, più elegante. Sono finalmente tramontati i vini da profumeria e da falegnameria, quelli che ci venivano imposti da chi il vino lo degustava dopo il pasto, lo viveva da medicazione, per dirlo con Gino Veronelli, e tutti si sono buttati a fare questi vini iperasfaltati. Tutto questo sta tornando indietro. Da questo punto di vista noi abbiamo negli autoctoni italiani, o meglio diciamo nei vitigni antichi, un grande serbatoio di opportunità, perché mediamente i nostri vitigni antichi danno vini più fini, più eleganti, più acidi, più freschi. Spero che le cantine comincino a pensare che la quotarellizzazione, la merlottizzazione, l'omologazione dei vini per piacere ai mercati internazionali non è la strada da battere, anche perché poi c'è il Cile, c'è il Sudafrica, c'è l'Argentina, c'è la stessa America, che sono in grado di fare grandi vini da vitigno internazionale, e noi ci dobbiamo assolutamente differenziare. Bene, grazie Carlo Cambi, grazie. Io volevo semplicemente aggiungere questo sul discorso delle cantine, diciamo quelle moderne, quelle nuove, disegnate da grandi architetti. Mi chiedo, visto che la falegnameria sta andando al capolinea, cosa succederà di queste cantine che sono state disegnate proprio sulle barrique? E mi chiedo, forse dovranno essere rinnovate, forse dovranno essere ristrutturate. Carlo, cosa ne pensi? Beh, è caduta la linea. Alessio, ci sei ancora? Sì, ci sono. Dove va il vino del futuro? Beh, bella domanda, ma io credo che va in una direzione che in qualche maniera Carlo Cambi ha accennato. Sicuramente è il momento di, ma diciamo che l'Italia lo fa da 20 anni, di lavorare sui vitigni nostri e tirare fuori il loro grande potenziale, una cosa che credo tutti noi stiamo facendo ormai da 10 o 15 anni, e questo è sicuramente una marcia, un asso alla manica di tutti noi. Poi permettimi di dire qualcosa sulla comunicazione che tu hai accennato. Io penso che sia anche il momento di comunicare in maniera diversa, utilizzando quegli strumenti che sono assolutamente alla portata di tutte le aziende, che sono principalmente i social network, che stanno, secondo me, possono creare quel rapporto diretto tra consumatore e azienda in una maniera nuova, alla portata anche delle piccole aziende. Un mini spot nostro, noi stiamo facendo dall'inizio della vendemmia, abbiamo postato su Facebook, sulla nostra pagina che è Planeta Winery, un almanacco della vendemmia, cioè una specie di stage della vendemmia con ogni giorno una foto diversa che un po' fotografa tutto l'andamento della vendemmia. Grazie. Queste piccole cose sono utili per... Grazie Alessio, ti devo interrompere perché ho chiuso il tempo. Grazie ad Alessio Planeta. Bene, io vi do appuntamento domani con Il Riposo del Guerriero e ogni giorno con La Pillola alle 11.05 con replica alle 23.05. Buona domenica da Davide Paolini. Thank you.